riprendendo insomma il tema, stavamo parlando, ti dicevi, le intendevi come forme di abitudine, ma è così. Cos'è un'abitudine? Un'abitudine è un pensiero ripetuto che produce una determinata, magari anche un comportamento ripetuto, con sensazioni ripetute, che vanno avanti nel tempo. E infatti nel buddismo si dice, pensieri ripetuti nel tempo provocano le abitudini, che nel tempo generano il carattere, che nel tempo genera il destino. Questa è la visione buddista. Per cui, mentre nella visione materialista, che comunemente accediamo tutti, i pensieri sono irrilevanti e contano solo le azioni, in una visione più sottile come quella buddista, i pensieri sono realtà materiale. Se io penso in un certo modo, produco delle sostanze chimiche che hanno un impatto su di me come delle droghe. Allora, se produco pensieri di tipo evolutivo, io cresco. Se produco dei pensieri tipo distruttivo, è quello che genero nel mio organismo. E adesso devo aggiungere una come fatto. Abbiamo due possibilità nel nostro sistema fondamentale: essere in stato di difesa, cioè in uno stato di attacco-fuga, insomma, tanto per capirci, che un animale prova quando è in pericolo, e questo il cervello di un animale, il nostro cervello ci assomiglia tantissimo su questo aspetto, e poi invece abbiamo un sistema di crescita, no? Quando siamo in sistema di difesa, come quando siamo in guerra, certamente la cultura non cresce, non crescono le arti, non crescono, cioè dobbiamo concentrarci sulle armi per sconfiggere i nemici. Ora, il problema è che i cervelli degli animali, e anche quelli umani, sono costruiti bene come sistema di difesa da pericoli fisici. E quindi funzionano quando l'allerta dura poco. Allora l'animale entra in stato di allerta, ha una reazione biochimica fortissima, dopodiché, dopo poco, lo vedi che ritorna tranquillo come prima. Nell'essere umano, lo stato di difesa, lo stato di attacco, fuga, lotta, fuga, viene attivato dai pensieri. Quindi da cose come pagare le bollette, il fatto di essere sovraccarichi di impegni, il fatto di litigare con propria moglie, il marito, figli, tutte queste cose attivano il sistema di difesa. Il sistema di difesa produce nel corpo quelle sostanze chimiche che poi lo mantengono nel tempo, per le cose che ci siamo detti prima. Allora, cosa succede? Che quando si verifica un'abitudine a stare in sistema di difesa, gran parte delle cellule del nostro cervello vengono usate per questo. Si creano delle vere e proprie autostrade neurali, dove circolano in continuazione la nostra energia. E se non facciamo nulla di volontario apposta, la nostra energia va a finire lì. Ecco perché chi ha cominciato a frequentare pensieri distruttivi, se non fa uno sforzo consapevole e cosciente, quei pensieri distruttivi vanno in automatico, sono come poi programmi. Qui abbiamo un computer, ci fai girare un programma in automatico e lo va avanti, a meno che non lo spegni. E è molto difficile sapere come si fa a spegnerlo, bisogna avere la conoscenza delle tecniche adatte, ecco. Questo quindi è molto importante. Quindi vi ho detto in questa breve sintesi che i pensieri sono materia, che la materia appunto chimica genera le sensazioni, che le sensazioni poi vengono lette dai pensieri, che questo anello funziona sia in positivo, quando produco pensieri positivi di possibilità di crescita, di evoluzione, di armonia, sia in negativo. E qui ci troviamo nella distanza, la distinzione tra l'ego e l'anima. Io creo ego quando creo pensieri che sono di separazione, quindi di paura, di rabbia, tutte le emozioni che conosciamo. Creo anima tutte le volte che io produco pensieri di amore, armonia, generosità, gratitudine e tutte le qualità dell'essere che possediamo. Guarda, qui nel libro c'è proprio un punto dove addirittura fa proprio un test, come lo facciamo noi, tra ego e anima, tra quando funzioniamo a livello del lobo frontale e quando invece no. Corrispondono esattamente a quello che nei nostri testi si dice tra l'ego e l'anima, proprio uguale. Sono proprio le stesse cose, e quindi, per esempio, siamo nel lobo frontale, qual è la conseguenza? Che siamo creativi e siamo gioiosi, e che siamo in armonia con l'universo, che siamo in armonia con le persone, siamo nell'anima. E quando siamo nell'ego, succedono tutte le altre cose che sappiamo, ci sentiamo arrabbiati, frustrati, tesi, confusi, tutte quelle cose, o depressi. Quindi, come dicevo prima, questo testo, Evolvi il tuo cervello, è la base, diciamo, la conferma neurofisiologica delle conoscenze di oggi sul modello che noi seguiamo, ego-anima, e quindi dell'io-governo. E quindi di come, e quindi che cosa sono i sequestri emozionali? Sequestri emozionali vuol dire cadere nello stato di attacco, fuga, difesa, dove il livello di intelligenza è molto basso, perché il direttore dal podio se n'è andato e l'orchestra come fa a suonare la sinfonia? Non ce la fa. Ecco, allora adesso andiamo sui discorsi più ampi. Che cos'è spiritualità? Ecco, in modo, in senso laico, spiritualità, leggevo il libro di Mancuso, di Vito Mancuso e di Corrado Arias, bellissimo libro, Dio dintorni. Ma Mancuso, che è un teologo laico molto libero dalle soggezioni ai dogmi, alle gerarchie, dice che il divino non è altro che il principio ordinatore impersonale che c'è nell'universo, cioè il principio in base al quale si è passati da una molecola a una cellula a un organismi sempre più complessi fino a produrre l'organismo umano addirittura con la coscienza, con la consapevolezza di sé. Questo noi lo vediamo nella natura, basta osservare, almeno sulla Terra è così. Il resto dell'universo, per quello che conosciamo, non ha questo principio, cioè il principio di entropia, cioè della progressiva perdita di ordine. E sappiamo anche che l'ordine si crea a spese del disordine, cioè noi ci nutriamo di elementi che sono meno ordinati di noi, come le piante o gli animali, le cose, ma produciamo un ordine superiore, cioè noi abbiamo bisogno per produrre dell'ordine di utilizzare dei pezzi di ordine che ci sono intorno. Insomma, questo è un discorso che potremmo eventualmente affrontare un altro momento. Allora, la spiritualità cosa vuol dire? Vuol dire andare verso forme di ordine, complessità, organizzazione, armonia sempre su più alte. Allora, l'essere umano ha un cervello che può essere la sede della spiritualità, perché se usa il lobo frontale, allora usa il suo direttore d'orchestra e allora sì che tutte le sue parti vengono coordinate un progetto. E lui fa proprio, John Dispenza fa proprio riferimento ai grandi dell'umanità, coloro che hanno veramente avuto degli ideali, che hanno, sono saputi andare oltre i limiti della vita quotidiana, anche le sofferenze del corpo, non hanno saputo andare oltre, come Nelson Mandela, Gandhi, queste persone, grandi persone. E loro avevano il lobo frontale continuamente attivo su un ideale e l'hanno reso materia, l'hanno creato in primo luogo come forma mentis nel loro cervello, facendo in modo che il loro cervello non fosse un caotico accozzaglia di suoni e rumori, ma fosse una sinfonia. E poi pian pianino, contagiando di questa musica le persone intorno. Questo è quello che i grandi uomini hanno fatto, e per i quali la riconoscenza non sarà mai sufficiente, perché è un grandissimo lavoro, è molto più facile lasciarsi andare al caos interiore e lasciarsi andare ai piaceri più semplici, insomma, no? Tutto questo richiede la capacità del rinvio della gratificazione, cioè nel diventare direttori d'orchestra di se stessi bisogna saper rinunciare a dei piaceri molto facili, e questo l'hanno detto tutte le grandi religioni, tutte le grandi tradizioni. Non per punirsi, non per darsi addosso, queste vabbè sono delle follie che ci sono, sono dell'essere umano, le produce comunemente, ma perché soltanto sapendo rinunciare al piacere di emettere il primo suono che ti capita, il primo, o far accedere al primo impulso, sei in grado di generare dentro di te un ordine di livello superiore, dove poi la musica che puoi ascoltare diventa una musica divina, ecco. E il divino nasce dentro il cervello dell'essere umano. Io personalmente credo che quello è il divino, cioè il divino è ciò che si costruisce, del resto anche Vito Mancuso dice così, è un fenomeno emergente, lui lo chiama emergentismo, non nasce dall'alto, ma nasce dalla materia, materia vuol dire viene da mater, cioè madre di tutto, e grazie alla materia che dentro ha questo principio ordinatore, per Vito Mancuso questo è il principio divino, almeno nella vita è così, noi possiamo raggiungere dei livelli di complessità, organizzazione, bellezza che sono altrimenti incompatibili. E questa è l'apertura del centro del cuore. Il nostro centro del cuore si apre a tutti gli esseri quando abbiamo finalmente creato pace al nostro interno, vuol dire che il direttore è sul podio e sa fare silenzio a tutti. Ecco perché in un altro bellissimo testo, quello di Alberto Chiara, Il potere segreto del cuore, si dice tre cose fondamentali: rilassamento del corpo, silenzio della mente, apertura del cuore. Ci sono tutte queste tre cose insieme. Silenzio della mente vuol dire che non sto più dietro a quello che mi capita. Sono davvero concentrato. E questo è quello che dice il buddismo. Thich Nhat Hanh cosa dice? Come faccio a sviluppare fede positiva? Ma io posso sviluppare fede positiva, almeno intendendola in senso vero, cioè la fede è qualcosa che vale la pena di credere, quando io ho sviluppato presenza mentale. Cioè quando io so davvero stare nel qui ed ora, cioè sono concentrato, quindi presenza mentale, concentrazione. E la concentrazione cosa porta? Alla visione profonda della realtà, cioè quella che va al di là del fenomeno immediato. E allora quella realtà in cui io vedo che mio padre e io siamo la stessa cosa, e nello stesso tempo siamo diversi. E che io e gli altri esseri siamo diversi ma siamo la stessa cosa. Soltanto quando accedo a quel livello lì di concentrazione, di apertura, allora ho la visione profonda e allora è naturale che sorga la fede positiva. Io faccio parte di questa grande catena, sono un filo di un grande arazzo, sono una goccia in un grande mare. Fine della separazione, fine della paura, fine della rabbia, della disperazione e di tutte le forme egoiche. Quindi oggi noi abbiamo, grazie al lavoro di tanti uomini prima di noi, abbiamo la possibilità di avere davanti agli occhi una visione così semplice, che è insegnabile ai bambini, non ci vuole nulla, è banale, è facile, nello stesso tempo è grande. Ma questa grandezza è dovuta a che cosa? Al lavoro, alla consapevolezza, alla forza di volontà, alla capacità di rinunce alle vie facili che alcuni, non tantissimi esseri umani hanno prodotto. Questo è il divino dentro l'umanità. Ecco. E Joe Dispenza in questo libro, bellissimo, proprio ci passo a passo, ci fa vedere come il nostro cervello può giungere a questo. E lì c'è un altro collegamento con un altro settore importantissimo che spesso... Che cos'è l'ipnosi? Che cos'è la trance? Perché la trance può dare dei risultati così fantastici? Ecco, e beh, lì c'è una bellissima definizione, a un certo punto ne parla. Dice, com'è che noi possiamo creare una nuova realtà? Come possiamo arrivare di noi stessi? Come possiamo creare un nuovo sé? Perché se no il nostro sé è fatto dei vecchi circuiti. Cioè da quelli cui mi sento inferiore, mi sento una nullità, mi sento giudicato, tutte le solite storie insomma, che conosciamo fin sopra i capelli. Come posso creare un nuovo sé che non dipenda da questi? Allora lì bisogna avere quella capacità di concentrazione del direttore d'orchestra che dice lo spartito da suonare è questo ragazzi, ci concentriamo su questo nuovo spartito. E cosa vuol dire? Che entri in uno stato così concentrato che il tempo sparisce, lo spazio sparisce, non c'è più, addirittura io sparisco, non sono più nessuno, non ho più un'identità. Sono talmente concentrato in ciò che sto facendo e sull'immagine sulla quale sto lavorando che basta. Il mondo scompare, che cosa rimane? Rimane l'idea e il pensiero diventa più reale della realtà, ma in quel momento il corpo non lo sento più, non sento il male al ginocchio, non sento il prurito al piede, non sono distratto da un pochino di languore allo stomaco, perché tutto tace in quanto il direttore d'orchestra è riuscito come leader del tutto a generare quello stato meraviglioso per il quale molti di noi vanno ai concerti a sperimentare qualche volta, perché è raro, quei momenti magici in cui il direttore, l'orchestra, il solista, il pubblico sono una sola cosa. Quel momento magico è una metafora di quello che succede nelle cellule del nostro cervello quando va sul podio un grande direttore. E il nostro compito è diventare quello. Quello vuol dire divinizzarsi. E divino vuol dire che supero i limiti della materia, che sono altro che i limiti delle costrizioni, autocostrizioni che abbiamo generato al nostro interno, attraverso la fede negativa, attraverso i nostri copioni e tutto questo. Allora, il grande discorso di Joe Dispenza è che ci fa capire il copione dell'analisi transazionale, le nostre convinzioni, un aspetto più profondo che riguarda la biochimica, non è solo un fatto di convinzione, è un fatto di fenomeni materiali, chimici che attanagliano le nostre cellule. Abbiamo generato delle cellule che credono di essere inferiori, che credono di essere una nullità. E il direttore d'orchestra deve avere una tale forza da elevarsi al di là di queste miserevoli credenze e far passare questa nuova musica universale di questa grande armonia, di questa grande cosa. Quindi ti dico, per questo io sono rimasto commosso leggendo il libro di Evolvi il tuo cervello di Joe Dispenza, come del libro di Vito Mancuso e di Corrado Augias, e l'altro libro bellissimo di Rosenberg, e tutti e tre questi libri si tengono insieme in un modo mirabile. E di questo poi ne parleremo un'altra volta.